contagi per il coronavirus, riferisce la Cina, sono in rallentamento ma hanno superato quelli della SARS. Le vittime sono oltre 100, si organizzano i rimpatri degli italiani, mentre il presidente americano Trump valuta la sospensione dei voli da e per la Cina. Trump, che ieri ha presentato il suo piano di pace per il Medio Oriente, 50 miliardi ai palestinesi, Gerusalemme capitale in divisa di Israele, i palestinesi non ci stanno. In Italia si discute ancora del dopo voto. Tra i postumi registriamo un po' di nervosismo tanto tra i 5 Stelle quanto nel centrodestra. L'attenzione si rivolge però al Mediterraneo, dove la crisi libica sta spingendo le partenze dalle coste. La Ocean Viking approderà a Taranto con 400 persone, la Alan Kurdi è arrivata a Malta, la Open Arms non ha ancora un porto e 237 persone a bordo. Intanto, per il capitolo vecchie storie mai risolte, l'Italia è riuscita a farsi condannare dalla Corte di Giustizia Europea per i ritardi nei pagamenti alle imprese. Ora c'è il rischio di una maxi multa. Questa 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 mattino" di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, le 6:29 minuti e 55 secondi, arrotondiamo, va, le 6:30 esatte. Di questo mercoledì 29 gennaio vi aspetto al 349-238-6666 con i vostri sms, messaggi su WhatsApp e le vostre voci con gli WhatsApp audio. Vi aspetto anche in diretta su Facebook, siamo là, sulla pagina di 24 mattino, mettete un bel mi piace e così avrete anche le notifiche su quello che scriviamo, su quando andiamo in diretta e via dicendo. Su Instagram, su Twitter, l'abbiamo sospesa per un po', però ricominciate, mandateci le vostre foto, le foto della vostra mattina, a quest'ora, alle 6:30 o anche più tardi se volete, quello che vedete dalla vostra finestra o dal vostro finestrino, mi raccomando, fermi in auto. Il racconto collettivo della mattina degli ascoltatori di Radio 24 sul nostro canale Instagram. Dunque... il coronavirus, ci arriveremo tra l'altro più avanti, ne parleremo alle 8:20, avete già sentito qualcosa in GR24 naturalmente, e i postumi di questa campagna elettorale, di questo voto in Emilia-Romagna, ma veramente una campagna elettorale che è finita. Letterina a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, ti prego, fai in modo che le prossime elezioni, qualunque esse siano, siano più lontane nel tempo possibile, perché io non ne posso più di questa campagna elettorale perenne. Caro amico, se forse noi possiamo prenderci un attimo di respiro, non può farlo certamente Agnese Pini, la nostra amica Agnese Pini, direttrice della Nazione, che è in linea con noi. Agnese, ciao. Buongiorno, perché, ciao. Perché tra poco si vota in Toscana, esatto. E nelle Marche, che sono due regioni di riferimento per il, esatto, tuo giornale, ovviamente. Come vanno, esatto, le cose da quelle parti, tra l'altro? Non hanno nemmeno scelto i candidati, mi pare. Ma solo il centro-sinistra per il momento ha scelto il candidato, arrivandoci con un tempismo ottimo, perché il nome che poi è stato confermato era già nell'aria da quest'estate, poi... Chi è? Eugenio Giani. Eugenio Giani. Questo in Toscana. Nelle Marche si ha una qualche idea? Beh, nelle Marche la situazione è ancora più intricata, diciamo così, però, però lo è dappertutto, sì, di questi tempi, quindi è tutto complesso. È tutto compreso. Come è compresa la situazione a livello generale? Mi scrive un ascoltatore: nervosismo nel centrodestra? Ma voi siete fake, sempre a sinistra. Guardi che non è che ci stiamo inventando niente sotto questo aspetto. Perché ieri, dalle dichiarazioni che abbiamo visto di Giorgia Meloni, dalle parole che abbiamo visto di Silvio Berlusconi. La sensazione che qualche problema ci sia all'interno del centrodestra dopo questa campagna elettorale in Emilia-Romagna, che certamente ha portato la Lega ad un ottimo risultato, però non l'ha fatta vincere, e quello che è successo in Calabria, dove la Lega ha di fatto dimezzato le sue preferenze rispetto alle europee, e a vincere è stata una candidata moderata come Iole Santelli di Forza Italia, e visti gli accordi che ci sono per le altre regioni del sud, Campania e Puglia, Agnese, insomma, è chiaro che ci sono le tensioni nel Movimento 5 Stelle, però è una fase sicuramente nella quale la maggioranza naviga in acque un po' più tranquille, prescrizione a parte, tutto quello che sappiamo, per carità. E mentre invece forse nel centrodestra qualche piccolo rivolgimento si inizia a vedere. Che dici? Ma sì, dicevo appunto, la situazione è indicata proprio per questo, perché la maggioranza tira, diciamo, un sospiro di sollievo temporaneo, anche se i problemi sono, diciamo, apertissimi, ed è solo una questione di tempo. Tanto il PD quanto 5 Stelle hanno a che fare con dei prossimi mesi decisivi per decidere in quale direzione andare e come riformare per entrambi gli schieramenti in maniera diversa i propri partiti o movimenti. Nel centrodestra invece la partita è ancora più aperta, perché chiaramente il risultato del voto tanto in Emilia quanto in Calabria, per motivi diversi, riequilibra gli schieramenti di forze all'interno di questa coalizione, chiamiamola così, che poi una vera e propria coalizione nel centrodestra, intesa come potevamo pensarla nella Seconda Repubblica, non c'è mai stata. Cioè, abbiamo un centrodestra con una Lega sì, leader assoluta, e due partiti più o meno accodati. Ora, le tensioni che c'erano più striscianti nei mesi scorsi, perché di questi due partiti accodati, ricordiamone uno, ha aumentato in maniera esponenziale i suoi consensi, e parliamo di Fratelli d'Italia, no? Di Fratelli d'Italia, che ha superato la soglia psicologica del 10%, quindi quasi raddoppiando nel giro di pochi anni i suoi voti potenziali. Quindi una Giorgia Meloni sembra un po' più scalpitante rispetto a una leadership di Salvini, che invece ha sempre lasciato poco spazio agli avversari. L'abbiamo visto anche in queste campagne elettorali, soprattutto in Emilia. Sì, soprattutto in Emilia, ma anche in Calabria. Anche in Calabria la presenza di Salvini c'è stata, ha girato. Sì, l'abbiamo visto anche nell'irrituale discorso di mezzanotte di Salvini, quando ha deciso di parlare la sera del voto, anticipando i tempi canonici di questi discorsi e spostando l'attenzione sul successo calabrese, che poi per la Lega tanto successo in realtà appunto non è stato. Allora chiariamo sempre con gli ascoltatori, ovvio che questo centrodestra rimane attrazione leghista, è assolutamente evidente che sarà Matteo Salvini in un prossimo voto, se il voto dovesse essere a breve, se non ci saranno stravolgimenti, ovviamente sarà il candidato, anche se questa figura di fatto non esiste, però il candidato alla presidenza del Consiglio, il candidato alla guida del paese per il centrodestra. Questo è evidente, non è che finisce questa cosa. Diciamo così che il parziale rafforzamento dei suoi alleati fa sì che l'asse si sposti un pochino, e questo Salvini che voleva portare la Lega a dominare completamente la coalizione, un po' cede. Le questioni che hanno a che fare con la maggioranza sono quelle connesse alla prescrizione. Ieri c'è stato l'ennesimo rinvio. Le divergenze nella maggioranza, dice il ministro Bonafede, sentiamolo. Su tutti i temi del processo penale e quindi anche sulla prescrizione ci sono divergenze nella maggioranza, questo è noto a tutti. Su quelle divergenze ci stiamo confrontando all'interno della maggioranza, con un confronto anche lì molto serrato e leale. Il cantiere è aperto, è oggettivamente aperto, e ha l'obiettivo di garantire la certezza della ragionevolezza dei tempi, la certezza della risposta di giustizia, eliminando possibili zone di impunità. E dall'altra parte l'alleato Italia Viva, l'alleato di maggioranza, dice con Maria Elena Boschi, che tra l'altro va in piazza insieme agli avvocati, alle camere penali che ieri erano in piazza per protestare, dice non possiamo indietreggiare. Stiamo lavorando dentro la maggioranza perché vogliamo sostenere lealmente il governo, però non possiamo indietreggiare su alcuni principi fondamentali, come sul tema della prescrizione. Noi eravamo contro questa riforma della prescrizione, non l'abbiamo votata, non abbiamo cambiato idea adesso che siamo in maggioranza. Se qualcun altro l'ha fatto, mi dispiace per loro, noi manteniamo la nostra coerenza. Altre questioni sul piatto, italiane ma anche non italiane. Abbiamo lungamente parlato nelle settimane scorse di quel vertice di Berlino dal quale si è emersi senza grandi risultati sulla pacificazione della Libia, una tregua solamente teorica in sostanza. E questa tregua solamente teorica, della quale quotidianamente viene denunciata qualche piccola violazione, cosa genera? Genera tensione nel paese e ovviamente nuove partenze dal paese, nuove partenze dalla Libia. Ci arriveremo tra un attimo, ne parleremo, faremo anche un punto sui numeri con Matteo Villa dell'ISPI su quanto effettivamente questo fenomeno ci sia. Di certo sappiamo che oggi appunto la Ocean Viking approderà a Taranto con 400 persone a bordo. Di certo sappiamo che la questione, come è naturale, entra anche in politica, con Salvini che dice insomma, se io devo andare a processo per sequestro di persona, dato che il governo ha tenuto ferma la Ocean Viking per 4 giorni in attesa che si votasse in Emilia Romagna, allora li denuncio anch'io. Sabato, domenica, lunedì, martedì. 4 giorni prima di concedere un porto sicuro a questa ONG, li denuncio per sequestro di persona il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Andrò a processo perché ho bloccato per 4 giorni lo sbarco da una nave militare di 131 immigrati? Ebbene, aver tenuto a bordo per 3 giorni, non 131, ma 400 immigrati, allora, se siamo in un paese dove le regole valgono per tutti, è sequestro di persona. E quindi ci troviamo in tribunale col signor Conte e la signora Lamorgese e vediamo se il criminale è solo Salvini e se la legge è uguale per tutti. Eccolo dunque Salvini che ricomincia a lottare sui temi a lui cari. Qua un po' di ascoltatori, ovviamente vicini alla Lega, criticano quello che abbiamo detto. Guardate, non è che abbiamo criticato Salvini qua, stiamo semplicemente dicendo che all'interno del centrodestra qualche movimento sembra esserci. Poi che questo movimento si concretizzi oppure no, sinceramente non lo sappiamo, non ne abbiamo la certezza, no. Mi ricorda un po' le critiche che ricevevamo quando dicevamo che c'era tensione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, e tutti dicevano no, è tutto a posto, ma come vi permettete? Poi boom! Ragazzi, calma, vediamo che cosa succede. Prima di dirci che siamo, no, che non capiamo niente. Magari sbagliamo noi, non siamo qua a fare i fenomeni. Cara Agnese, dunque questo tema dell'immigrazione oggettivamente torna in primo piano. Abbiamo il problema della crisi libica. Devo dirti, è vero anche che la Ocean Viking non è una nave militare, per carità. Però, insomma, io tutti i torti a Salvini non mi sento di darglieli, perché un po' l'impressione che fosse elettorale questo blocco della Ocean Viking ce l'abbiamo avuto, l'impressione ce l'abbiamo avuta tutti, Sì, è stata un'impressione comune e devo dire che sulla questione immigrazione c'è anche un grande tema mediatico di attenzione rispetto a questo argomento. È chiaro che quando Salvini era ministro dell'Interno l'attenzione mediatica sul tema immigrazione era fortissima anche in virtù di quella che era la sua politica rispetto a questo argomento. Salvini ha fatto il centro del suo periodo da ministro dell'Interno, concentrando quasi tutte le energie su questo ambito, e ovviamente la stampa tutta gli è andata dietro, per cui ogni volta che c'era una questione sbarchi, la questione sbarchi riempiva veramente il dibattito pubblico. In questo caso l'attenzione mediatica complessiva era concentrata su ben altro, quindi l'impatto è stato differente. E quando tutti abbiamo pensato che ci fosse appunto un'operazione anche elettorale nel tenere fermo un problema scomodo, però ce ne siamo tutti accorti meno di quanto non sarebbe successo se ci fosse stato appunto Salvini, ai tempi di Salvini al governo. Questo è utile raccontarlo perché fa capire quanto cambiano le percezioni. Sì. Cambiano le percezioni anche sulla base ovviamente di quanto di quanto una persona, nella fattispecie appunto Matteo Salvini, carica la questione anche dal punto di vista mediatico. E sì, lo abbiamo detto, lo dico agli ascoltatori che ci stanno scrivendo, sì, ovviamente la Gregoretti era una nave militare, parliamo di un'altra cosa, e questa è una nave di una ONG. È chiaro, i casi sono diversi, però insomma lo spunto di Salvini è interessante per permetterci di dire occhio, che innanzitutto c'è un problema che non è risolto e forse non è risolto nemmeno a livello politico. Comunque adesso parleremo anche dei numeri, come vi dicevo, e faremo un punto proprio su questi numeri. Donald Trump, facciamo sentire un passaggio, Carmelo Lauricella, rapidamente. My vision presents a win-win opportunity for both sides. A realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood. Alla fine, caro Agnese, ci è arrivato anche Donald Trump, cioè non ricordo che ci sia un presidente americano che non abbia provato a fare la pace in Medio Oriente, ossia la pace tra israeliani e palestinesi. Ci prova anche Donald Trump e lo fa con una soluzione che scontenta grandemente i palestinesi: Gerusalemme capitale indivisa, uno stato palestinese sì, ma senza il controllo delle frontiere esterne. Insomma, un piano chiaramente favorevole ad Israele, che scontenta i palestinesi e che sarà difficile da portare ad un tavolo di pace tra le due parti. Che dici? Sì, questa è la strategia Trump rispetto alla questione palestinese, che ci ha più o meno comunicato dall'inizio del suo mandato, nettamente schierata da una parte. Forse è il presidente americano che con più nettezza, almeno negli ultimi anni, ha appoggiato una parte piuttosto che un'altra rispetto alla questione israelo-palestinese, che è una polveriera, quindi già anche voler essere diciamo più equanimi, più super partes, è quasi impossibile non scontentare qualcuno. Nella questione Trump la strategia è sempre la solita, cioè appoggiare in maniera più sfacciata di altri predecessori una parte, una fattispecie quella israeliana. Questo io immagino che Trump sappia che è impossibile arrivare a una soluzione fattiva con una proposta di questo tipo, appunto come ricordavi anche tu, non arriverà quasi mai a un tavolo essendo così sbilanciata da una parte, però è l'unica strategia diplomatica e quindi non diplomatica del presidente americano su una questione che lui evidentemente non vuole davvero risolvere. Traffico. Mattino. Eccoci, molti WhatsApp ovviamente sulla questione dell'immigrazione. Maria Letizia che scrive: buongiorno, non è perché era una nave militare ma perché la Gregoretti era già suolo italiano, e anche questo è un punto. Ma alcuni sul tema della propaganda, insomma, dicono... alcuni ci dicono il punto è che dell'immigrazione i giornali, i grandi giornali eccetera eccetera non parlano più. Altri ci dicono: guardate che era Salvini che lo metteva in primo piano da ministro dell'interno e quindi la questione era amplificata. Comunque, eterno dibattito ancora aperto, e ancora più aperto adesso, come si diceva, nel momento nel quale la crisi libica è lontana dall'essere risolta e i segnali che sembra che si ricevano sono quelli di una di ripartenze, insomma, ecco, dalla costa, che in realtà non si sono mai fermate, però sembrano accelerare. se stiano effettivamente accelerando, lo chiediamo a Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI che si occupa proprio di questi temi, già altre volte nostro ospite. Villa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora che segnali stiamo ricevendo negli ultimi giorni, Villa? Ma c'è da dire che la polemica è un po' impazza, perché avrete sentito anche voi, con lo sbarco dell'ultima nave Ocean Viking, che aveva a bordo più di 400 persone, superiamo le 1300 persone sbarcate in Italia a gennaio, che è un dato molto più alto rispetto a quello dell'anno scorso, cioè quasi 10 volte più alto rispetto a oggi. L'anno scorso erano sbarcate 120 persone, però dobbiamo ricordarci anche che quello dell'anno scorso era veramente un dato molto insolito. Nel 2018 sono sbarcate in Italia 3.000 persone a oggi, quindi più o meno il triplo di quelle che sono sbarcate oggi, in un momento in cui gli sbarchi erano già in calo profondo parecchio. Quindi diciamo che siamo in un momento in cui gli sbarchi ci sembrano molto tanti e molto, molto alti, perché nel 2018 erano praticamente a zero. E quindi la polemica, diciamo, può svolgersi su entrambi i fronti. Io credo che se andiamo avanti così, diciamo che su 12 mesi di Lamorgese potremmo vedere 20-25 mila sbarchi, che è un numero, tanto per mettervelo nel contesto, più o meno doppio rispetto al minimo toccato nell'era Salvini, ma del tutto in linea con il primo decennio, gli anni 2000, quando le persone arrivavano, diciamo, in numeri sostenibili, e molto lontano dai 200 mila sbarchi, diciamo che sono arrivati nei 12 mesi prima del calo dei sbarchi del 2017 minuti. Quindi sì. 25.000 rispetto ai 200.000 sbarchi, siamo molto lontani da quei picchi lì. In linea con l'era Minniti, così possiamo definirla, Villa? Sì, addirittura inferiore, perché nell'era Minniti eravamo più o meno a 40.000 sbarchi. Guardate se vi sto affogando di numeri. No, ma va bene, perché è importante, cioè, per questo l'abbiamo chiamata. E l'altro punto che voglio capire è se i segnali che stiamo ricevendo, anche appunto, come si diceva, in forza di questa tregua libica che, insomma, regge e non regge, insomma, no? È un po' incerta, sono di un possibile no? Ritorno delle partenze in grande quantità. No, io in grande stile credo proprio di no, ma questo non tanto per l'instabilità in Libia, ma perché il numero di persone che in Libia, dalla Libia, vuole partire è decisamente inferiore agli anni scorsi. Le stime parlano di al massimo 100-150 mila persone che vorrebbero partire, non vuol dire che partiranno tutte insieme. Rispetto a un totale di stranieri circa 700.000 in Libia, che però di solito non si muovono tanto. Questo è il risultato di quello, diciamo, le politiche europee che non sono state messe in atto solo in Libia, ma anche, diciamo, nel fronte sud, quindi in Niger, in tutti quei paesi di transito che facevano parte, diciamo, erano poco controllati, quindi lasciavano passare le persone. Adesso con i finanziamenti europei anche le zone di sicurezza sono molto molto più sorvegliate, e quindi da 2 anni praticamente è crollato il numero di persone che entra in Libia o che può entrare in Libia. Questo fa sì che anche di fronte a una forte instabilità comunque le partenze riguardano chi già è in Libia da parecchio tempo, che magari è partito 3-4 volte, è stato intercettato dalla guerra costiera libica, la cosiddetta guerra costiera libica, quindi in realtà dalle milizie stesse che l'hanno riportato indietro, e adesso ci prova più volte finché non riesce, pagando. Quindi quello che ci sta dicendo, Villa, è che in realtà le operazioni europee condotte finora, almeno in parte, ovviamente parzialmente, ovviamente con una certa lentezza, stanno iniziando a funzionare. Cioè il famoso, mi si scusi per questa espressione, che suscita sempre un po' di tensione e di divisione, il famoso aiutiamoli a casa loro, ossia il fatto di portare gli aiuti e il supporto nei paesi o di transito o di partenza in parte sta funzionando. Sembra di sì, però anche l'Europa si è resa conto che aiutiamoli a casa loro come slogan non funziona tanto neanche dal punto di vista logico. In realtà, se tu aiuti dei paesi molto molto poveri a svilupparsi, tendenzialmente devi aspettarti che le migrazioni aumentino, non diminuiscono, almeno all'inizio, perché le persone che non hanno i soldi per spostarsi ce li hanno, e ovviamente sono ancora abbastanza povere da pensare che l'Europa sia una meta possibile. Immaginatevi soltanto, per esempio, in Nigeria il reddito medio è più o meno 20 volte inferiore a quello dell'Italia, quindi quando noi diciamo che siamo abbastanza poveri, per i nigeriani siamo assolutamente ricchi. D'altro canto l'Europa invece, avendo capito questo, alla retorica del aiutiamoli a casa loro ha abbinato quella del fermiamoli a casa loro, e di fatto i soldi che arrivano dall'Europa dal 2015 si concentrano soprattutto sugli apparati di sicurezza dei paesi. Quindi, per esempio, in Niger di fatto c'è stata una militarizzazione nel nord del paese e nel centro del paese, che fa sì che sia molto più difficile passare per i migranti. Quindi diciamo che sicuramente il tema etico resta lì, perché abbiamo deciso di fermare persone che non stiamo aiutando tantissimo. Ok, quindi si tratta semplicemente di una missione che fa sì che queste persone vengano fermate nel paese di transito e non arrivino in Libia e dunque non possano partire. C'è qualche ascoltatore che è rimasto confuso quando lei ha detto li stiamo affogando di numeri, Allora, per semplificare, e mi corregga se ho capito male, se proseguissimo a questo ritmo avremmo un numero di sbarchi doppio con la gestione Lamorgese rispetto alla gestione Salvini, corretto? Esattamente, okay. Da 11.000 più o meno a 25.000. Questi sono i numeri. Poi abbiamo fatto un paragone con l'era precedente, per così dire, l'era Minniti innanzitutto, e Villa ci ha detto, dopo gli accordi che Minniti raggiunse in Libia, se si proseguisse così, insomma, i numeri di sbarchi sotto la gestione Lamorgese sarebbero inferiori a quelli dell'era Minniti, e poi ovviamente nulla di paragonabile al periodo più intenso degli sbarchi, quando insomma si videro partire 180.000, 200.000 persone, quando i numeri erano questi. Questo è il concetto sostanzialmente. Sì, precisamente, ricordiamoci di nuovo, se fossero 25.000 sbarchi quest'anno, e tra l'altro non tutti dalla Libia, per adesso soltanto un terzo dalla Libia, che forse è l'unico paese su cui possiamo accedere seriamente, mentre la Tunisia e l'Algeria è un po' più difficile, se fossero 25.000 quest'anno sarebbero in linea con i primi 10 anni degli anni 2000, quando di sbarchi si parlava veramente poco, perché erano appunto un numero diciamo molto molto basso per un paese nel mezzo del Mediterraneo. Allora, la ringrazio, grazie a Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, per essere stato con noi, Agnese Pini, direttrice della Nazione, grazie Agnese, ci sentiamo alla prossima. Cosa abbiamo ancora? Ce l'abbiamo 20 secondi per sentire Speranza sul coronavirus? Vai Carmelo Lauricella, vai. Ma noi stiamo seguendo le cose con grandissima attenzione, siamo in collegamento costante con tutte le organizzazioni internazionali, a partire dall'OMS. Ieri il vice direttore dell'OMS ha partecipato alla nostra task force, che si riunisce dal 22 di gennaio tutti i giorni qui al Ministero per fare un punto. Stiamo tenendo alta la soglia d'attenzione, siamo per evitare allarmismi, ma c'è la massima cautela da parte delle istituzioni. Spazio al GR, nel quale si tornerà a parlare di coronavirus. Vi aspetto dopo. I messaggi, mandateceli anche audio via WhatsApp e fateci sentire la vostra voce.